occuperemo di petrolio e di cibo. Sullo sfondo c'è un'altra questione che lasceremo per ragioni di tempo sullo sfondo, che è quello dell'acqua, che è uno dei punti di strozzatura reali del sistema, sia per usi irrigui, agricoli, sia per usi umani di consumo diretto, nonché per uso industriale. Per uso industriale, peraltro, si potrebbe anche consumare dell'acqua di peggiore qualità. Noi siamo abituati a considerare l'acqua un'unica cosa. In realtà non è così, l'acqua ha una serie di qualità. Noi siamo abituati a uno spreco di acqua della migliore qualità che utilizziamo anche per la lavastoviglie, per il bagno o per lavare a terra. Ecco, questo è uno spreco assolutamente irrazionale in un mondo nel quale l'acqua di particolare qualità sta diventando rara. Ma questo lo lasciamo da parte. Parleremo di due questioni: l'energia e il cibo. E perché queste due questioni? Perché si tratta di questioni fra loro interrelate, di questioni fra loro connesse. Quello che può determinare una cosiddetta tempesta perfetta, vi ho spiegato più volte il concetto di tempesta perfetta, se volete poi ve lo ripeto. Voi sapete che noi per quanto riguarda l'energia utilizziamo una pluralità di fonti energetiche: il nucleare, il carbone, il petrolio, in misura molto più ridotta l'energia eolica, eccetera, eccetera, eccetera. Però sapete anche che il cuore della questione sta nei combustibili fossili, carbone e petrolio, che per loro natura sono non fonti non rinnovabili, o perlomeno rinnovabili in tempi estremamente più lunghi nel loro consumo. Il petrolio si è prodotto attraverso la decomposizione di microrganismi o di vegetali sottoterra, nel sottosuolo, in periodi estremamente lunghi. Naturalmente non è possibile oggi interrare sostanze del genere ripromettendosi di trovare petrolio. Dovremmo parlarne fra probabilmente qualche decina di secoli per ottenere qualche risultato. Tempo troppo lungo per poter essere considerato. Di carbone, come voi sapete, ce n'è una grande quantità, però il carbone ha un inconveniente, l'altro grande combustibile fossile, e il carbone ha il problema di essere il combustibile più inquinante che esista. E voi sapete che uno dei problemi che abbiamo, ecco, cominciate a vedere come si tratti di un sistema, uno dei problemi che abbiamo è quello del mutamento climatico. Le emissioni di anidride carbonica sono tali da provocare un mutamento del clima che sta producendo effetti negativi, in particolare nell'agricoltura, ne riparleremo. Per cui utilizzare il carbone oltre una certa soglia non appare consigliabile. A tutt'oggi la fonte energetica principe del sistema è il petrolio. Qui però, per capire come funziona e quali sono i problemi, voi sapete che si dice che siamo vicino al cosiddetto peak oil, cioè il punto più alto di produzione al di là del quale c'è un calo costante della produzione di petrolio stesso. Bisogna dire che la previsione dell'esaurimento del petrolio è stata fatta più volte, già dai primi del Novecento. Già nel 1926-27 si prevedeva la fine del petrolio nei 15 anni successivi. Poi ogni volta il termine è stato spostato in avanti, e la cosa curiosa è che ogni volta il più avanti era di più anni ancora. Prima si trattava di 15 anni, poi sono diventati 40, poi sono diventati 100. si discute se questa volta non ci siamo davvero, anzi qualcuno sostiene che il peak oil sarebbe già stato addirittura toccato quest'anno o l'anno scorso e che d'ora in poi dovremmo attenderci solo rendimenti crescenti. Di sicuro non si fanno più grandi scoperte da ormai 30 anni e soprattutto non si scoprono grandi giacimenti. Il momento di scoperta di grandi giacimenti più importante fu intorno al 64-65. Oggi, a distanza di più di 40 anni, noi non abbiamo lontanamente più quel tipo di prospettive di scoperte di grandi giacimenti. Questo induce a pensare che siamo arrivati al peak oil. In realtà le cose sono più complicate. E per capirci bisogna capire come è fatto il petrolio. Intanto va sfatata un'idea molto diffusa, quella per la quale il petrolio formi sorta di grandi laghi all'interno di caverne naturali, per cui c'è la sonda che raggiunge con una cannuccia, lo estrae. Vediamo dalla torre di trivellazione zampillare il liquido nero. Ecco, tanto per cominciare, il petrolio non necessariamente nero, la cosa non è molto importante, ma per darvi l'idea di quanto i luoghi comuni incidano, il petrolio può essere anche di colore marrone, come quello nigeriano, oppure di colore giallo, un giallo anche abbastanza brillante, come alcuni petroli tipici. Questo per dirvi che il petrolio, quello che noi chiamiamo petrolio, è una sostanza che in realtà ha una grande diversità di qualità interna. In realtà il petrolio si trova con micro, diciamo piccole gocce, all'interno del sottosuolo e impregna di sé strati rocciosi, strati di calcare, di arena, dipende dallo strato interessato. Questo fa capire che c'è bisogno di particolari tecniche di estrazione del petrolio. Il petrolio è stato estratto con tecniche diverse nella storia e il motivo per cui noi abbiamo costantemente spostato in là il cosiddetto peak oil, qual è? Da un lato la difficoltà di censire esattamente quale sia l'estensione di un giacimento, quale sia la profondità, eccetera, si tratta di stime spesso approssimative. Dall'altro il fatto che costantemente il termine viene riaggiornato perché siamo in presenza di nuove tecnologie estrattive che consentono di raggiungere diverse profondità. Ad esempio, fino agli anni 60 non si pensava all'estrazione di petrolio in zone sottomarine. Poi invece questo fu reso possibile. Fino in alcuni casi alcuni dry hole, cioè buchi secchi, giacimenti esauriti, sono tornati a essere produttivi perché la nuova tecnologia consentiva di spingersi più in là. Ed ecco che per esempio adesso si sta sostenendo che siamo a una nuova svolta di questo tipo e infatti sembra che ci siano nuove tecnologie in grado di superare molto il limite in profondità. Si parla addirittura di raggiungere i 4 km di profondità, di spezzare lo strato argilloso e di estrarre gas e petrolio da profondità precedentemente non toccate. È il cosiddetto shale, S-H-A-L-E. Raggiungere questo strato significa trovare giacimenti per miliardi di barili, quindi quello che sposterebbe molto in là il tempo di esaurimento della risorsa. Poi vedremo perché questa cosa può essere promettente, ma non è affatto sicuro che risolva i nostri problemi o che risolva nel tempo secondo luogo, il petrolio, dicevo, ha una serie di qualità. Essenzialmente il petrolio si distingue per la sua densità, quindi se si tratta di petroli leggeri o di petroli pesanti, e per la sua acidità, cioè per la presenza di zolfo al suo interno. In qualche modo le due cose sono connesse alla viscosità del petrolio. Ovvio che un petrolio molto viscoso si estrarrà con grande fatica, viceversa un petrolio più puro, più leggero, si estrarrà più facilmente. Ma questo è importante: la qualità dei petroli è in qualche modo gradata a seconda una tabella compilata già molti anni fa dall'American Petroleum Institute, che fissa in gradi, se non sbaglio in 39 gradi, il grado di leggerezza del petrolio. Perché questo è importante? Perché questo si riflette sulle tecniche di raffinazione. Ecco, vedete, il primo problema sono le tecniche di estrazione, il secondo le tecniche di raffinazione. Qual è il problema? Dal petrolio voi potete estrarre tre tipi di combustibili. Combustibili leggeri, benzina e nafta, che sono quelli più pregiati, che danno più profitto, quindi sono la parte più remunerativa. Poi ci sono combustibili medi, cherosene e gasolio, e poi infine ci sono i cosiddetti combustibili pesanti, bitume, coke, lubrificanti pesanti, sostanzialmente produzione di scarto a bassa redditività. Ovviamente un petrolio particolarmente leggero e dolce, cioè con poco zolfo dentro, darà più benzina, darà più nafta, quindi in qualche modo darà più profitto. Allo stesso modo in cui una tecnologia è in grado di estrarre al massimo benzina e nafta, darà una produttività maggiore, una redditività maggiore del prodotto. Bene, detto questo, il prezzo del petrolio come si fa? Voi ogni tanto sentite dire il barile di petrolio è arrivato a 20, 30, 50, 170 dollari. Intanto ovviamente il barile non è più usato materialmente come contenitore, è soltanto un'unità di misura, è chiaro. Bene, come si forma? Classicamente ovviamente incide la domanda e l'offerta, e però attenzione, incidono molte altre componenti. Intanto la domanda e l'offerta di quale qualità di petrolio. È evidente che il consumo maggiore, il petrolio più richiesto, è il petrolio leggero, il petrolio fine, quello da cui estraete la benzina e la nafta. E quindi può addirittura esserci un aumento di produzione del petrolio e esserci un aumento dei prezzi, per la banale ragione che magari aumenta la produzione del petrolio, ma di quello più pesante, di quello che richiede più trattamento di raffinazione, eccetera. Non solo, ci sono altre componenti. Ovviamente l'evoluzione tecnologica, soprattutto i trattamenti di raffinazione, inciderà sui margini di profitto e quindi sull'oscillazione del prezzo. E inciderà molto la capacità, il rapporto fra raffinazione ed estrazione. Per esempio negli anni 80, perché crolla il prezzo del petrolio, e gli anni 80 sono gli anni del Bengodi, perché la produzione di petrolio arriva a ben 80... scusate, adesso ho un momento di corsa, credo 80 milioni di barili al giorno. Mentre invece l'industria di raffinazione è in grado di raffinarne soltanto 60. Quindi evidentemente c'è un surplus di produzione che in parte viene stoccata, ma in parte ovviamente pone problemi di collocazione sul mercato e quindi ne abbassa i prezzi. L'offerta è eccedente non tanto rispetto alla domanda finale, quanto rispetto alla domanda industriale di raffinazione. non solo, voi sapete che dagli anni 70 al 73 si è formato l'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Produttori di Petrolio, ogni tanto fissa delle quote di produzione per mantenere il prezzo a certi livelli. Non sempre bisogna dire che il cartello dell'OPEC ha funzionato come avrebbe dovuto. In molte situazioni è successo che poi singoli paesi hanno, come si suol dire in gergo, scartellinato, nel senso che sotto banco hanno cercato di vendere quote eccedenti rispetto a quelle che gli erano state assegnate. Per cui un po' dipende dalle decisioni dei paesi appartenenti all'OPEC, un po' dipende dall'effettiva applicazione di queste decisioni, la formazione dell'offerta sul mercato. Quindi, come vedete, c'è una serie di fattori che incide nella formazione del prezzo. Però fin qui stiamo parlando sostanzialmente di fattori di tipo strutturale. E però guardate che non è proprio così. In particolare uno degli effetti della globalizzazione è stata la crescita della pressione speculativa finanziaria sul petrolio. E ve lo dice una cosa molto semplice. Nel 2005 il petrolio si era attestato grosso modo ormai da molto tempo sui $40 al barile, qualcosina in più, ma sostanzialmente decimale. Poi è iniziata un'ascesa sempre maggiore, sempre più grande. Nel 2006 si paventava che il petrolio potesse addirittura toccare i $60 al barile. Poi nel giro di qualche settimana quella barriera venne infranta di slancio e si arrivò agli 80, ai 100, per culminare nel 2008, nei primi mesi del 2008, a $170 al barile. Una quotazione assolutamente imprevedibile solo qualche anno prima. Poi però diremo che cosa significa quando diciamo a tanti dollari al barile, poi lo precisiamo. Ecco, dopodiché, come sapete, c'è stata la grande crisi finanziaria, quella dei mutui subprime, eccetera, per cui il petrolio è rapidamente sceso, anzi possiamo dire che è crollato, e sul finire dell'anno scorso era a $39 al barile, era tornato quindi a livelli addirittura inferiori a quelli da cui era partito. Attualmente è di nuovo in crescita, sia pure in altalena, e grosso modo siamo intorno ai $70 al barile, ma con oscillazioni anche abbastanza evidenti. Dimmi. Stamattina ho visto 77. Sì, ma sono oscillazioni, non è così. No, non prende la letta, anche no, perché no, adesso vi spiego che significa che costa $77. Allora, già questo vi fa capire una cosa. Ti fa capire che il dato strutturale incide ma molto meno di quanto non si creda. La spiegazione che è stata data, più di tanto non riusciamo a produrre, però cinesi e indiani succhiano petrolio disperatamente, per cui questo ha fatto crescere la domanda fuori di ogni limite ed ecco perché il prezzo aumenta. Questo è vero, intendiamoci, che la Cina abbia fatto crescere notevolmente la domanda di petrolio, che in buona parte anche l'India abbia fatto crescere la domanda di petrolio, è vero. Però attenzione, in parte anche il Brasile, cioè tutti i paesi emergenti. Però intanto sono stati anni in cui c'è stata una notevole espansione di offerta di gas, che è l'alternativa in qualche modo. Il gas in qualche modo è in relazione al petrolio. Dove c'è petrolio, sopra c'è metano. Questo è abbastanza regolativo. Da parte della Russia in particolare c'è stata una forte offerta di gas, che quindi in qualche modo, soprattutto nei paesi europei, ha compensato l'aumento della domanda di petrolio, redistribuendo in qualche modo la domanda su fonti differenziabili. In realtà, se le ragioni possono entrare sul mercato, certo, potremmo assistere ad un certo aumento del prezzo e viceversa potremmo assistere a una sua diminuzione nel momento in cui, per effetto della crisi, si compra meno petrolio, ci sono meno consumi, c'è meno domanda, quindi il prezzo tende a riassestarsi verso il basso. Ma questo in primo luogo non spiega un aumento da 1 a 4, perché il rapporto fra domanda e offerta non è variato in rapporto addirittura di 1 a 4. Se voi dite da $40 a 170, stia dicendo che il prezzo è più che quadruplicato. In secondo luogo, se la questione fosse di natura solo strutturale, noi dovremmo sì avere un calo di fronte al calo della domanda, e però la domanda non può scendere sotto un certo livello. Ci sono dei livelli inquercibili al di sotto dei quali non puoi andare, e quindi a questo punto dovremmo sì assistere a una discesa del prezzo, ma non ha alcuna logica il fatto che il prezzo scenda addirittura al di sotto di quello di partenza. Questo vi fa già capire quanto incida in tutto questo il meccanismo della speculazione. Per capire questo vi devo spiegare a questo punto come funziona il meccanismo del mercato. Allora, intanto, che significa che il petrolio costa X al barile? Vi ho appena detto che il barile di petrolio è il barile di petroli molto diversi tra loro. E allora quel prezzo a che si riferisce? Si riferisce al prezzo, al petrolio di migliore qualità, il cosiddetto Brent. I petroli di migliore qualità, secondo la scala API, sono il Brent e il WTI, WTI. Di solito il riferimento è al Brent, quindi tanto per cominciare tenete presente che non stiamo parlando del prezzo medio del petrolio, stiamo parlando delle sue punte alte, del petrolio in qualche modo più redditizio. Ma soprattutto bisogna tenere presente un altro elemento. Sul mercato ci sono due tipi di contratti petroliferi. Il primo contratto è il pronti contro termine e il secondo contratto è il cosiddetto future. Pronti contro termine, esattamente come nel linguaggio della finanza, significa questo: che io acquisto una certa quantità di petrolio che mi viene immediatamente consegnata. Appena la petroliera lascia la banchina, io pago e quel petrolio arriva. Il secondo sono i cosiddetti future. I future sono l'acquisto di petrolio futuro, per cui io, per cautelarmi, i contratti future, ve l'ho già spiegato, sono in qualche modo dei contratti, una tipologia di contratti particolari che teoricamente dovrebbero garantire dal rischio, per cui l'acquirente compra al prezzo di oggi un determinato quantitativo di merce, in questo caso di petrolio, che però gli verrà consegnato, normalmente il termine sul mercato londinese è 2-3 anni, sul mercato americano 5 anni, in realtà il più delle volte si tratta di 5-6 mesi nei fatti. Per cui io compro oggi una certa quantità al prezzo di oggi e mi verrà consegnata tra 6 mesi. Viceversa, il rivenditore ha interesse a venderlo, perché guardate che non sempre questo significa che io tiro fuori i soldi e quello tira fuori il petrolio. Può anche esserci una situazione nella quale in cui io pagherò quando mi verrà consegnato al prezzo di oggi, mi sono impegnato ad acquistare una certa quantità di petrolio, va bene? Ho acquisito una sorta di opzione, di diritto, chiamatelo come volete, insomma, ci siamo capiti. A questo punto però il rivenditore ovviamente a sua volta si cauteva dal rischio di un calo del prezzo. Il venditore ha una doppia convenienza: da un lato si cautela dal rischio di un calo del prezzo, perché magari fra 6 mesi il petrolio costa meno, e quindi a quel punto lo venderebbe sotto costo rispetto a quello che può vendere oggi. Dall'altro lato, in qualche modo, se il contratto dovesse addirittura anticipare i capitali, ma può succedere, questo può dar luogo a manovre di tipo speculativo da parte del venditore, ma anche l'acquirente può dar vita a operazioni di tipo speculativo. Io ho comperato da Paolo una certa quantità di petrolio al valore X nominale di oggi. Dopodiché non è detto che io debba materialmente farmi consegnare quel petrolio. Posso venderlo a Siena, posso vendere a Siena il mio diritto. Ovviamente nel frattempo è successo che il prezzo del petrolio è lievitato. Io ho comperato 80 dollari, dopo una settimana il petrolio è arrivato a 90 e la tendenza è all'aumento. Vado da Siena e dico: senti, vuoi una partita di petrolio a 92 dollari, che è già più del prezzo di oggi, però può essere meno del prezzo che avremo dopodomani. Viene a sua volta, può comprare quel prezzo di petrolio e rivenderlo a un prezzo ulteriormente maggiorato, soprattutto se il mercato tende a ad apprezzare il bene considerato. È ovvio che chi fa questa operazione non è tanto il consumatore finale, il produttore, il raffinatore di petrolio. Chi fa questa operazione è o il finanziere o il commerciante, chi svolge un ruolo di brokeraggio per cui acquista e vende partite di petrolio che non utilizzerà di metà. Si può giungere a una situazione in cui la stessa partita di petrolio viene acquistata e venduta, il petrolio futuro, più volte nella stessa giornata. Esattamente quello che accade col mercato delle azioni, delle aziende. C'è stato un momento nel quale noi abbiamo registrato movimenti di borsa per i quali in una giornata, e questa situazione è durata qualche mese, si vendeva e si acquistava una massa di barili superiore 6 volte alla produzione di quella giornata. Noi abbiamo una capacità di produzione di 80 milioni di barili al giorno, ne commerciamo 480 milioni. Che cosa significa questo? Che o stiamo comprando petrolio ancora futuro e quindi stiamo spingendo in qualche modo il prezzo più in alto, perché stiamo comprando, quindi più petrolio compriamo oggi, meno ce ne sarà in vendita domani. Cioè, se oggi compriamo tutto il petrolio che sarà prodotto a ottobre, per intenderci, questo significa che domani dovremo conquistare e comprare il petrolio di novembre, forse addirittura di dicembre, e così via. Oppure più semplicemente può significare che la stessa partita di petrolio è passata di mano in mano più volte, e normalmente questo significa un aumento di prezzo, perché è ovvio che più lunga è la filiera fino al consumatore finale, più ovviamente ogni singolo passaggio comporta un aumento di prezzo. Anche perché guardate che il mercato del petrolio è un mercato facilmente turbabile. Primo, è un settore che si regola essenzialmente su una cosa. Il mercato dei pronti controtermini, di cui vi ho parlato prima, per cui io compro petrolio fisicamente esistente che mi viene consegnato, e solo si calcola il 30%, ma qualcuno sostiene addirittura il 25% sul totale. Quindi è parte minoritaria, e in questa parte naturalmente dovete tenere presente che la qualità migliore è la parte ulteriormente più piccola. Per cui è molto facile fare dei giochi concentrati in modo da ottenere una turbativa del prezzo oggi sul quale noi poi venderemo e acquisteremo il petrolio futuro. Io posso, giocando su una certa quantità, comprando a una certa quantità del petrolio pronti contro termine oggi, una piccola quantità, posso influenzare il prezzo del barile odierno in modo da vendere contemporaneamente del petrolio futuro a condizioni migliori. Do la sensazione di un prezzo in ascesa, per cui compro 10, vendo 200, quei 10 li ho pagati a prezzo superiore oggi per far aumentare il prezzo, quei 200 li vendo a prezzo notevolmente superiore. Guardate che tutto questo spesso accade, che chi vende, vende allo scoperto, non ha il bene che vende, sta vendendo un'impegnativa, poi dovrà procurarsi sul mercato la quantità di petrolio che ha venduto e quindi a quel punto cercherà di giocare sulle fluttuazioni del prezzo, perché magari il prezzo in una giornata cala di diverse unità e allora cerchi di comprare rapidamente in modo da poter fornire il petrolio che hai promesso. Ecco, quindi come vedete, quello che regola il gioco è essenzialmente il calcolo della fluttuazione del prezzo. In tutto questo l'ottica del consumatore è l'ottica, assolutamente l'ottica della domanda finale, è l'ottica che conta di meno. Quello che conta è l'ottica dell'operatore e la reazione psicologica rispetto a questo. Ma siccome le reazioni psicologiche per loro natura sono influenzabili, tanto direttamente con manovre sul mercato, quanto per esempio attraverso la valutazione dei rischi, si accentua il rischio di un'azione militare israeliana contro l'Iran. L'Iran è un paese importante della produzione petrolifera. Questo potrebbe portare a un embargo, potrebbe portare addirittura a una guerra. E una guerra, per esempio, la guerra irachena ha ridotto molto fortemente per parecchio tempo la produzione di petrolio di uno dei più importanti produttori mondiali. Ecco, vedete come nel mondo della globalizzazione l'incrocio fra eventi politici, militari, culturali, sociali, economici, finanziari porta al risultato finale, per cui vedete come in realtà un atteggiamento di tipo puramente specialistico, attento solo al rischio finanziario, può non cogliere invece le tendenze reali, perché è un avvenimento esterno a ragioni economico-finanziarie come quello di una guerra a determinare un'impennata del prezzo. Ecco, io ho una notizia in anticipo. So quindi che ci sarà, per una ragione qualsiasi, ho motivo di ritenere che domani verrà fuori una notizia che provocherà reazioni psicologiche di un certo tipo nel mercato del petrolio. Ad esempio, il ministro israeliano lancerà un ultimatum all'Iran. Guardate che talvolta non è affatto necessario che poi effettivamente ci sia il bombardamento. Per provocare una fluttuazione di breve periodo è sufficiente anche una dichiarazione. E qualche volta quella dichiarazione può essere fatta addirittura intenzionalmente. Adesso capite perché io vi ho detto che nel mondo della globalizzazione il ruolo dell'intelligence statale o privata tende ad essere una risorsa strategicamente primaria. Perché è ovvio che se io so prima certe cose, sono in grado di determinare certi eventi, questo mi assegna un vantaggio rispetto agli altri. Quindi, primo dato, questo è un prezzo altamente sensibile alle reazioni psicologiche. In secondo luogo, questo è un settore che per sua natura non è molto inclino all'innovazione tecnologica. Gli impianti costano molto e quindi si cerca di ammortizzarli, ma non solo. Siccome ha dei prezzi molto volatili, noi non siamo in grado esattamente di prevederlo, ma tutto impegni, immobilizzi di capitali importanti, e noi non sappiamo quanto tempo ci vorrà per rientrare e quindi tenderemo il più possibile a sfruttare gli impianti esistenti. Quindi è un settore, fra virgolette, pigro dal punto di vista tecnologico e questo a sua volta incide nella dinamica dei prezzi. Paradossalmente la volatilità dei prezzi scoraggia l'innovazione, ma il ritardo dell'innovazione favorisce le turbolenze dei prezzi e si crea un classico feedback positivo per cui una tendenza provoca ed eccita l'altra. E allora veniamo adesso al problema: siamo a Bitcoin oppure lo shale ci libererà da questo, spostando il termine di tempo molto in là? E non è detto che abbiamo risolto i nostri problemi. Primo, perché non abbiamo ancora oggi una realistica valutazione del costo che implicano queste nuove tecnologie. Grosso modo sappiamo che è possibile e che ormai inizia ad essere conveniente economicamente, ma non sappiamo quali sono i margini. Non sappiamo soprattutto in quale aree dovremo poi concretamente estrarre il petrolio. Certo, oggi la prospettiva di estrarre petrolio a 4 km sottoterra è una prospettiva estremamente interessante, però non è detto che troveremo la stessa resistenza dappertutto. Non è detto che estrarremo quale petrolio, quello di migliore qualità o quello invece di qualità inferiore. Oggi noi abbiamo ancora valutazioni estremamente approssimative. Appunto, come vi dicevo, il prezzo del petrolio è in larga parte determinato non tanto dalla sua concreta offerta, ma dall'aspettativa, che naturalmente è un'aspettativa tutta basata su valutazioni, su stime approssimative. E in quanto tale non è detto che poi non contenga errori. L'annuncio dello shale che effetto provocherà sul prezzo del petrolio? Per esempio potrebbe portare a un abbassamento del prezzo, perché l'idea che a breve ci sarà la disponibilità di masse importanti di petrolio, soprattutto di gas, potrebbe ad esempio scoraggiare la speculazione in quella direzione, dirigendo le altre. È ovvio che io la speculazione, soprattutto se sono un rialzista, per cui punto a comprare oggi X, quello che venderò domani è X più 3, la faccio sui settori su cui mi aspetto il rialzo più vistoso. Viceversa, se invece su un determinato bene mi rendo conto che la tendenza è al ribasso, può convenirmi fare la speculazione apposta di tipo ribassista, cioè vendere oggi con un future petrolio che non ho per comprarlo domani quando costerà meno e poterlo consegnare al momento della scadenza. Il problema qual è? Che in mezzo a tutto questo noi abbiamo scarse possibilità di stabilire più o meno con esattezza quale sarà l'andamento nel tempo. Noi non sappiamo se e quando questa massa di combustibile sarà effettivamente disponibile. Non solo, ma evidentemente non sappiamo neanche in quali condizioni. Ad esempio, avantieri è stato dato l'annuncio della scoperta di straordinari giacimenti minerali in Afghanistan, in particolare di litio, che è una delle cose più delicate, perché dai vostri telefonini a tutto quello che funziona a batteria, in parte anche i nostri computer, hanno bisogno di litio. E sì, ho capito, il litio c'è, ma quali saranno le condizioni? Fino a quando c'è la situazione attuale dell'India, andare a fino a quando ci sarà la situazione di attuale terribile, non è detto che si riescano a impiantare gli impianti di estrazione. Come fai a partenza solo? La cosa più stupida, al rischio di rapimento dei tecnici, cosa che si verifica regolarmente in ogni situazione di questo. È ovvio che senza una normalizzazione politica sarà piuttosto difficile. Ma quale sarà in concreto il comportamento dei contraenti? Ad esempio, gli Stati Uniti potrebbero avere diverse reazioni. Una reazione potrebbe essere quella di accettare la trattativa con i talebani, di dargli il loro protettorato in qualche modo in cambio del fatto di permettere di sfruttare quelle risorse. O viceversa potrebbe essere l'idea del liquidiamo i talebani, quindi inaspriamo ulteriormente la guerra per risolvere il problema e poter estrarre quello che ci interessa. Ma in tutto questo c'è poi un'altra cosa, l'intervento della Cina. La Cina in parte ha acquistato già delle miniere e dell'Iran in Afghanistan. Ma soprattutto ha un problema, la Cina ha molta fretta di veder partire gli americani di lì, perché l'Afghanistan, sia pure per un piccolissimo tratto, confina con la Cina, ed è l'unica zona in cui ci sono basi americane in un paese direttamente a contatto con la Cina, una questione, come voi capite, poco gradita, per cui ad esempio potrebbe esserci un intervento di Pechino a sostegno della guerriglia dei talebani, per sgomberare al prima possibile gli americani da una posizione altamente sgradita. Ora, come vedete, il numero di variabili è estremamente alto. In questa situazione, benissimo, lo Shell, dove andremo a fare le estrazioni? A quali condizioni? Che situazione politica troviamo? A quali costi estrarremo e che petrolio estrarremo, quindi con quali costi lo raffineremo? Quali livelli di redditività ci darà? E tutto questo, voi capite, dimmi. Scusi, lo shale si fa solo onshore oppure anche offshore? Cioè, solo una tecnica di estrazione? No, lo shale è il frattare che devi spaccare per... mi piace non avere qui la... È la cosiddetta fratturazione idraulica, che voi non ci vedete niente da là. Vedi di farlo circolare, va, così lo vedono. Così vi rendete conto di... È la tecnica di fratturazione dello strato di argilloso che in qualche modo permette di raggiungere lì che avete disegnato. Per cui praticamente è una tecnica di fratturazione idraulica basata sul fatto che la presenza di sabbia permette una certa porosità che fa passare il gas o il petrolio, è quello che dicono. Ora il problema è che noi non sappiamo assolutamente in concreto, la prospettiva concreta è ancora difficilmente precisabile nel tempo, quindi non è detto che tutto questo arrivi in tempo a cavarci le pasticci. Sappiamo che c'è questa ragionevole probabilità. A questo punto torniamo al punto iniziale. Vabbè, ma allora come ce la caviamo per uscire da questa situazione? E vabbè, è ovvio che la prima indicazione è quella della differenziazione delle fonti energetiche. Ora, voi sapete che c'è l'idea di sfruttare fonti naturali come l'eolico, come le maree, eccetera, però tutto questo ha una redditività molto rilevante. Sapete che c'è anche altra possibilità, la mitica prospettiva del solare. Il solare però presenta non pochi inconvenienti. Il solare è la terra, con i mitici pannelli, va bene per lo scaldabagno di casa, va bene per il termosifone, non va bene per la produzione industriale e nemmeno per la trazione, perché lì hai bisogno di alti voltaggi. Gli alti voltaggi non li fai con l'energia solare catturata oltre l'atmosfera, hai bisogno di catturare l'energia solare fuori dell'atmosfera, quindi con stazioni orbitanti, di trasformarla in fasci di energia fotovoltaica da inviare a terra. Questo però presenta notevoli rischi, in particolare basterebbe piccolissima deviazione dell'angolo di inclinazione della stazione rispetto alla terra, magari anche per l'uso di un meteorite o qualsiasi ragione non prevedibile, il fascio di energia fotovoltaica potrebbe finire molto distante da dove previsto e magari provocare degli effetti assolutamente non gradevoli. Tra l'altro potrebbe anche essere usato come atto di guerra o di terrorismo. Questo è un'ulteriore possibilità, ma il rischio è che mandi ad arrosto una città, che non è esattamente quello che noi vogliamo. Quindi sì, il solare però presenta dei problemi ancora non risolti. Sapete che oggi le due possibilità più concrete a tempo immediato sono il nucleare e il biocombustibile. Ci sarebbe anche la possibilità dell'idrogeno. Il problema dell'idrogeno è che non è presente allo stato libero in natura. Lo devi ricavare scindendolo dall'acqua, per esempio, e questo presenta un consumo di energia, per cui non è detto che sia conveniente farlo. Ad esempio, è possibile ricavare petrolio dal carbone, però il problema è che per poterlo fare c'è un consumo di energia che rende poco remunerativo quel passaggio successivo. Quindi non è detto che la soluzione sia proprio dietro l'angolo. La soluzione oggi più praticabile, a parte il nucleare, sul quale non mi soffermo per ragioni di brevità, è quella dei cosiddetti biocombustibili, che è sicuramente la prospettiva più promettente, vuoi dal punto di vista ecologico, ambientale, perché si tratta di una fonte per sua natura rinnovabile. Coltivi, in particolare mais, che è quello da cui si estrae di più, o anche altre piante. Adesso in India stanno studiando un arbusto che in questo senso permette un'estrazione di questo tipo, e questo consentirebbe in qualche modo di avere una fonte rinnovabile costantemente. Ecco, qual è il problema? Il problema si collega al successivo, quello del cibo. Allora, veniamo al cibo. Facciamo due precisazioni iniziali. Voi sapete che c'è una piramide, no? Alla base abbiamo i cereali, che forniscono la gran parte delle calorie necessarie. Quindi un prodotto necessario, non sostituibile, e di basso costo. Però una nutrizione solo a base di cereali sarebbe in realtà una malnutrizione, perché i cereali non offrono proteine, offrono essenzialmente calorie, non offrono né proteine né vitamine. A livello successivo troviamo le proteine vegetali, soia e legumi. Siamo ancora nei limiti di una cosa necessaria, di costo relativamente basso, un po' più alto però del precedente, ma ancora siamo a livello, diciamo, raggiungibile. Poi ci sono le proteine nobili, che sono quelle di origine animale: carni, latte, pesce, uova. E qui le cose hanno un salto netto, perché si tratta di risorse importanti dal punto di vista proteico, ma non economiche, anzi altamente costose. Per avere le stesse proteine che vi dà un ettaro di soia, coltivato a soia, abbiamo bisogno, per ottenere una bistecca, l'equivalente di una bistecca, abbiamo bisogno di 7 ettari. Non solo, abbiamo bisogno di molta più acqua. È ovvio, stiamo percorrendo un ciclo alimentare molto più complesso, cioè non solo il consumatore finale, ma anche il consumato intermedio è a un livello biologicamente superiore, quindi deve impossessarsi di energia di buona qualità restituendola in forma degradata. Quindi sicuramente per il principio per il quale ogni organo vivente riduce il proprio grado di entropia interna solo a prezzo di aumentare molto quello in modo più che proporzionale a quello esterno, questo significa che questo tipo di proteine hanno un costo particolarmente elevato. Infine abbiamo i prodotti, diciamo, voluttuari, zuccheri semplici, cacao, caffè. Gli esempi peraltro sono ricavati anche dalla frutta, non necessariamente devono essere zuccheri raffinati, e lo zucchero è presente anche nel latte sotto forma di lattosio, quindi non c'è bisogno di avere zuccheri raffinati, caffè, cacao e così via. Bene, è ovvio che questo significa una cosa, che i cereali per loro natura sono quelli che costano meno e hanno una redditività minore. Man mano che si sale la redditività cresce. E significa anche un'altra cosa, che c'è una vera e propria piramide sociale alimentare. Al vertice troveremo le classi elevate, che sono quelle che hanno il consumo più vario e più ricco dei prodotti più rari. Al centro troveremo il ceto medio e alla base le classi. Normalmente il consumo va in questa, la curva del consumo va in questo senso. Le classi popolari tendono a nutrirsi prevalentemente di cereali, classi popolari o al di sotto della soglia di povertà, intendiamo, tendono a nutrirsi di vegetali, prevalentemente cereali, quando ve ne sia l'occasione, legumi e soia. Il ceto medio già accede, il primo segnale di formazione del ceto medio e l'aumento di consumo di carne, nettamente. Ma il ceto medio in qualche misura consuma anche generi voluttuari. Guardate che genere voluttuario, per noi magari una stecca di cioccolato è consumabile anche da dai ceti popolari. Ecco, non è proprio esattamente così a livello mondiale, tenete presente questa cosa. Naturalmente questo significa che man mano che si procede verso l'alto, la percentuale di reddito destinata al cibo diminuisce. Nei paesi poveri normalmente c'è il 40-45% del reddito che viene dedicato al consumo alimentare, con punte addirittura dell'80% nei paesi più poveri, quelli proprio sotto la soglia di povertà. Nel caso di paesi ricchi, dove ci sia un forte ceto medio, la percentuale tende a scendere intorno al 12%. Ora, tenete conto di una cosa, che la vera variazione è il ceto medio, perché il ceto più abbiente, per quanto possa, porca miseria, non ha capito che non posso, il fatto che oggi non ho orologio, quindi il fatto che il ceto alto possa consumare risorse particolarmente caviale e champagne non incide eccessivamente sul costo finale, e per quanto un ricco possa essere ricco e mangiare di più di un povero, non mangerà mai in proporzione di più in proporzione ai suoi miliardi. Paperonde Paperoni, anche se non fosse avaro, non mangerebbe 500 volte quello che mangia Paperino, ci siamo capiti? Ora, il problema in cui ci troviamo noi oggi è questo. Noi assistiamo ha una forte pressione ambientale, perché contemporaneamente abbiamo una cosa che non è mai successa nella storia dell'umanità. Contemporaneamente abbiamo due fenomeni: l'aumento della popolazione mondiale, che naturalmente richiede, posso sapere perché ci sia, c'è questo clima oggi che un po' mi distrae, eh? No. Allora, dicevo, distrazioni sono terribili queste cose. Dicevo, contemporaneamente abbiamo un'esplosione della popolazione mondiale che chiede in particolare un forte aumento della produzione di cereali. Nello stesso tempo abbiamo un aumento del consumo, in particolare della carne, per l'esplosione dei paesi emergenti, all'interno dei quali sta nascendo un ceto medio particolarmente numeroso. Tra Cina e India si parla di quasi 800 milioni di persone di ceto medio, e tenete presente che nei paesi maturi il ceto medio tende ad essere maggioritario, tendeva prima della crisi imposta dall'ondata dirigista ad essere maggioritario rispetto alle classi popolari. A partire dagli anni 70 la componente più numerosa non è stata più la componente operaia, bracciantile, eccetera, ma la componente di impiegati, artigiani, commercianti, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui è realistico pensare che se la tendenza dovesse essere la stessa anche in India e Cina, il ceto medio supererà di slancio gli 800 milioni di persone. Quindi ci troviamo in una situazione di doppia pressione: aumenta la richiesta in assoluto e aumenta la richiesta concreta. A fronte di tutto questo, la globalizzazione aveva promesso uno sviluppo della produzione tale da far fronte a questa domanda. Tenete conto che il problema della fame, che era esploso in modo abbastanza drammatico nel terzo mondo fra gli anni 50 e 60, in particolare una grande carestia in India negli anni 60, era stato relativamente risolto dalla cosiddetta rivoluzione verde, l'utilizzo di fertilizzanti e trattori in agricoltura anche nei paesi del terzo mondo, e nello stesso tempo l'utilizzo di specie a massima redditività, soprattutto i cereali di frumento. Questo per un certo periodo ha prodotto dei risultati assolutamente positivi, ha aumentato fortemente la produzione per ettaro. Sul lungo periodo però questa cosa ha finito con il produrre una serie di effetti collaterali non previsti e non desiderati. Ad esempio, in alcune zone la carestia del Sahel, in dozzina d'anni fa, se non ricordo male, fu prodotta da una cosa: i fertilizzanti non erano adatti a quel tipo di suolo, ma soprattutto i trattori e i macchinari agricoli avevano una capacità di escavazione molto maggiore di quello che il terreno di quelle zone non sopportava, perché lo strato di humus, di terreno effettivamente coltivabile, era molto più sottile che in Europa, e quindi una ratura troppo profonda finiva col diminuire molto fortemente la capacità produttiva di quel terreno. Allo stesso modo, l'adozione di specie ad alta produttività ha finito con il produrre la scomparsa di una serie di specie, di diversità biologiche. E questo ha La natura è un sistema molto complesso, quindi in quanto tale robusto, perché si basa su una grande varietà di specie. Se voi coltivate ad esempio una delle grandi carestie, la grande carestia irlandese alla quale mi pare faccia riferimento Iena, fu in gran parte dovuta a una cosa, all'adozione di un solo tipo di patata, per cui ci fu un'invasione di parassitani, per cui l'intera produzione venne distrutta. Probabilmente se ci fosse stata una varietà diversa di specie, alcune sarebbero risultate attaccabili, altre no, il danno non sarebbe stato altrettanto devastante. Quindi anche questo ha prodotto in qualche modo una certa fragilità del sistema. Ridurre la biodiversità significa aumentare la fragilità del sistema ambientale. Non solo, ma la rotazione nelle coltivazioni di un terreno è fatta in modo tale da mantenere la capacità di quel terreno di essere produttivo a certi livelli. La tradizione vorrebbe che ci fossero coltivazioni alternate per 6 anni e il 7° anno il terreno venisse lasciato riposare. Ora invece uno sfruttamento intensivo e monoculturale finisce con l'impoverire il terreno. Ancora, ci sono altre cose. L'adozione di pesticidi massicci in agricoltura ha certamente ridotto il fenomeno dei parassiti, ma ha imprevedibilmente comportato una allarmante emorragia di api negli Stati Uniti l'anno scorso. Non sappiamo se quest'anno la cosa si ripeterà. Si parla di una mortalità intorno al 75% delle api. Ora, questo è un danno assolutamente incalcolabile. Dovete tenere presente che 2/3 delle produzioni commestibili sono impollinate da insetti e di questi l'80% sono le api. Quindi questo significa il rischio di una violentissima caduta dei tassi di produzione. Una delle ragioni di questa moria di api si pensa possa essere l'adozione di alcuni pesticidi, non è ancora peraltro sicuro. Ecco, vedete come ci sono stati una serie di effetti controintuitivi che hanno ridotto la produzione sul lungo periodo. Della gravità della situazione ci si è accorti 2 anni fa, quando in una serie di paesi, dal Messico all'Indonesia alle Filippine, sono esplosi forti disordini sociali per il rischio carestia. In particolare frumento e riso sono calati come produzione. A cosa addurre questo calo della produzione in un momento in cui invece c'è una maggiore domanda? Le ragioni sono state diverse. C'è una prima ragione di carattere, se volete, più generale, tra virgolette naturale, il mutamento climatico. Il mutamento climatico che ha prodotto la desertificazione di una serie di terreni e ha in qualche modo ridotto anche la produttività di altre zone. La mancanza d'acqua ha ulteriormente inciso, siccità prolungate in alcune determinate zone hanno inciso fortemente. C'è stata poi un'altra ragione più diretta. In alcuni paesi la produzione, guardate, c'è una sola produzione che è agricola, che è eccedente, è ancora prevalentemente fatta in un paese industriale avanzato come gli Stati Uniti. Quasi tutti i prodotti della terra sono coltivati prevalentemente nelle regioni del sud del mondo. Fa eccezione il mais, che viene coltivato in modo preminente negli Stati Uniti. Dove però, attenzione, esistono una serie di programmi di appoggio statale all'agricoltura, esattamente come peraltro succede in Europa, per la quale il mais è particolarmente favorito. Questo perché? Perché il mais viene utilizzato per ricavare il bioetanolo, e cioè il combustibile, il biocombustibile. La coltivazione di specie dirette al cosiddetto biodiesel o biocombustibile è alla base della riduzione delle aree coltivate per alimenti. Paradossalmente in alcuni settori noi abbiamo avuto un aumento di produzione, ma che ha coinciso con una diminuzione dell'offerta alimentare, perché una parte considerevole è stata destinata al consumo energetico. Ma ci sono ancora ulteriori ragioni che hanno portato a questo calo di produzione, e una è proprio specificamente riconducibile ai meccanismi della globalizzazione. E vi ricordate che io vi accennai alla nascita del WTO, che di tutti, il centro, diciamo, mondiale, poi l'organismo per il trattato commerciale mondiale, no? Per il commercio mondiale. Siamo intorno al 93-94, l'atto iniziale di nascita del WTO quale fu? Fu un accordo a Marrakech, il cosiddetto TRIPS. Un accordo per la tutela della proprietà intellettuale, per scoraggiare pratiche di pirateria industriale, di clonazione di tecnologie o di marchi, eccetera, venne stabilito un accordo per il quale i paesi che volevano aderire al costituendo WTO dovevano accettare una serie di leggi in materia di tutela della proprietà intellettuale, dei brevetti, eccetera. E di qui la cosa appare anche abbastanza ragionevole. Dove questo ha dato dei problemi? Lo ha dato relativamente a due campi, la farmaceutica e l'alimentazione. La proprietà intellettuale è stata estesa anche al settore biologico. In particolare il trattato TRIP permette di brevettare alcune specie vegetali. Per cui cos'è accaduto? È accaduto questo, che dato che la possibilità di brevettare, primo, presuppone una capacità culturale da parte di chi da sempre coltivato una determinata specie vegetale, che deve sapere che deve brevettare in qualche modo. In secondo luogo ha un costo abbastanza elevato. Qualche anno fa alcune comunità della Namibia si rivolsero a Gaia, che è un'associazione inglese che si occupa di queste cose, per brevettare alcune loro produzioni particolari. E non potettero farlo, perché brevettare questo in ogni singolo paese comportava una spesa di $500,000, che era assolutamente al di fuori delle possibilità di queste comunità. Tutto questo ha provocato un fenomeno di biopirateria, per la quale in particolare 5 grandi multinazionali del settore alimentare, in particolare la Monsanto, tutti americani, e alcune multinazionali farmaceutiche americane e svizzere, parte francese, si sono impossessate di produzioni brevettandole come proprie. Ad esempio è accaduto per il riso basmati. Il riso basmati da sempre è coltivato in India ed è una delle produzioni più tipiche, per la quale l'India esportava qualcosa come 500.000 tonnellate, 3 milioni di tonnellate all'anno. Una ditta americana depositò la Petrarca come proprio il basmati, avendo modificato soltanto in piccolissima parte le qualità del riso in questione. Tutto questo ha trasferito gli utili, quindi chi volesse coltivare quel riso dovrebbe di anno in anno versare una certa somma per l'utilizzo delle sedi, comprese quelle popolazioni che erano da sempre coltivate in questa area. Questo dette luogo a proteste particolarmente violente, ma in ogni caso il Parlamento indiano, che pure per alcuni anni si era dedicato a ratificare il trattato su questo punto, venne costretto poi dal WTO ad accettare una legge che garantisse la proprietà intellettuale di chi aveva registrato quel determinato prodotto. La stessa cosa è accaduta per alcuni prodotti farmaceutici, sia indiani che thailandesi. Alcune ditte hanno sostenuto di essere state le prime, o comunque di avere trovato una soluzione tecnologica che permetteva un'estrazione più efficace dei principi attivi. Tutto questo ha di fatto creato una situazione di monopolio che ha impoverito fortemente e ha scoraggiato la produzione, anche perché a garanzia del proprio diritto a percepire una determinata quantità di denaro per la semina, le ditte produttrici hanno inventato delle cosiddette specie Terminator. Cosa sono? Sono delle sementi che permettono di ottenere il frutto, ma sono sterili, non produrranno altro seme, in modo da evitare che i contadini potessero mettere da parte la parte della produzione per ottenere semi da riseminare. Questo non solo ha ulteriormente impoverito i produttori, ma ha avuto anche un altro effetto non previsto. L'impollinazione, in alcuni casi, ha reso sterili altre specie coltivate nelle stesse zone, quindi creando un problema imprevisto. Da ultimo c'è stato un altro elemento che ha contribuito al calo della produzione nei paesi del sud del mondo. In primo luogo, la politica del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, tendente ad ottenere prima di tutto il pagamento del debito estero, ha scoraggiato gli investimenti strutturali in una serie di paesi. Per cui, ad esempio, le Filippine, che era un paese autosufficiente dal punto di vista alimentare e che anzi addirittura erano arrivati ad esportare certe quantità di riso, da ormai 10 anni hanno un crescente bisogno di importare riso. È uno dei motivi dell'insurrezione di cui vi ho parlato una volta, fu in gran parte causato dal fatto che le Filippine non erano riuscite a trovare sul mercato internazionale la quantità di riso che era necessaria. Questo anche perché paesi come Egitto, come la Russia, eccetera, di fronte alla crisi hanno reagito con politiche di chiusura, di divieto di esportazione, se non in piccola quantità, dei loro prodotti. Da ultimo c'è stato un altro elemento che ha influito. Nel nord del mondo l'agricoltura è sostenuta da contributi statali, per cui questo permette forti politiche di dumping, cioè prodotti di fatto sotto costo che invadono i mercati del sud del mondo. In particolare nel caso del pollame, questo in alcune zone come la Thailandia, l'Indonesia, ma anche le Filippine, ha portato a un forte abbattimento della attività di allevamento locale del pollame. In parte questo si è riflesso anche sulla soia o su altri beni. Tutto questo ha ridotto ulteriormente sia la superficie di aree coltivate, sia lo sfruttamento, per cui ad esempio era possibile vedere nelle Filippine che mentre c'era una crisi alimentare, in interi settori del paese le pannocchie di gran turco e di mais venivano lasciate marcire sui campi perché non era possibile, utile o conveniente trasportarle al mercato per insufficienza di infrastrutture che non erano state fatte, perché la Filippina aveva dovuto pagare fino al 29% artigianale per gli interessi sul debito estero e avevano dovuto ridurre a solo il 7% gli investimenti per infrastrutture, cosa che per estrema ironia gli verrà rimproverata la Banca Mondiale, che osserverà come le Filippine abbiano destinato troppo poco alla costruzione di infrastrutture per lo sviluppo. Una volta si diceva corrotti e mazziati, deve essere una sorta massima della Banca Mondiale. Bene, questo è il contesto ed è uno degli esempi degli effetti imprevisti della globalizzazione. È qui che siamo di fronte al rischio della cosiddetta tempesta perfetta. Perché questo? Fra petrolio e coltivazioni esiste un rapporto molto stretto. Perché? Uno degli elementi che ha provocato il forte aumento del costo dei cereali è stato determinato dall'aumento dei prezzi petroliferi, che si è riflesso tanto in aumento del costo dei fertilizzanti quanto in quello dei trasporti. E dunque questo ha in qualche modo inciso fortemente, e noi abbiamo assistito, io più i dati che vi posso leggere, a un costante aumento molto preoccupante del costo dei cereali. Ora voi immaginate un aumento del 23%. Allora, dicevo, quest'aula è particolarmente scomoda perché giustamente la gente che passa di lì non pensa che qui si fa lezione, giustamente fa per i cagnati. Ma vabbè, dicevo, da un lato il costo dei fertilizzanti e dei trasporti è inciso, per cui hai avuto rincari del 23% del fomento in molti paesi. Ora voi direte, da voi che sia il 23%, molto se stiamo parlando di un paese nel quale il 40-50% del reddito delle persone è assorbito dal cibo, e il cibo in gran parte è cereali. E voi dovete pensare a questo, se vi aumentano il costo del pacco di pasta del 25%, sì, voi lo notate, però tutto sommato via, non è una tragedia, ma voi provate a immaginare cosa significa per voi. Già immagino che al di là dei redditi familiari singolarmente non avrete probabilmente redditi particolarmente elevati, insomma, normalmente un giovane in un call center o cosa del genere rende di media quei 700-800 euro al mese. Ora, magari un aumento sul pacco di pasta può incidere per uno studente fuori sede, e però ragazzi, provate a immaginare se qualcuno non guadagna 700-800 euro al mese ma ne guadagna 200, quanto incide una cosa del genere. Quindi da un lato la turbativa dei prezzi petroliferi ha innescato questa cosa, e nello stesso tempo l'ha innescata per effetto dei biocombustibili. Però dall'altro lato questo poi si riflette, perché l'aumento del costo dei generi alimentari ad esempio genera turbolenze che hanno un loro effetto particolarmente rilevante sui mercati finanziari internazionali. Ho qui un articolo di un'agenzia di rating che dice: guardate che nel caso di gravi problemi di stabilità politica per quanto riguarda l'approvvigionamento alimentare, i paesi ricchi non saranno esenti dalle conseguenze, perché buona parte di queste produzioni è assicurata. Quindi da un lato abbiamo il rischio che per esempio interi paesi decidano di porre dei limiti alle esportazioni, quindi facendo esplodere quei prezzi sul mercato internazionale e creando delle turbative finanziarie complessive. Dall'altro abbiamo il rischio che queste situazioni di rivolta possano degenerare in alcuni paesi produttori di petrolio, e a sua volta vi ho appena finito di dire quanto il mercato del petrolio sia sensibile a turbative di ordine psicologico, per cui anche semplici segnali ad esempio di rivolta per carenze alimentari in paesi produttori di petrolio, in Venezuela per intenderci, piuttosto che l'Iraq o l'Arabia Saudita per esempio, possa innescare una spirale inflazionistica del prezzo del petrolio. Ecco, vedete, questo è uno di quei casi in cui possiamo assistere appunto a una tempesta perfetta, cioè a un effetto che ne rafforza un altro, che a sua volta rafforza il segnale in partenza e così via. Questo è uno dei problemi che noi abbiamo di fronte. La globalizzazione ha certamente segnato un forte sviluppo degli scambi internazionali, ha certamente segnato una fase di espansione produttiva innegabile, però ha anche prodotto una serie di effetti collaterali ovviamente imprevisti, ha anche prodotto delle interazioni di natura controintuitiva, ed è uno degli aspetti, secondo me, che deve essere studiato da scienziati sociali che in qualche modo vogliano operare su questo settore, su questo campo. Noi in queste lezioni, ho detto due parole finali, abbiamo cercato di fare che cosa? Abbiamo cercato, io vi dissi all'inizio una cosa, non mi interessa insegnarvi la storia, imbottirvi la testa di date e di dati, mi interessa insegnarvi a ragionare storicamente. Ragionare storicamente significa costantemente cercare le origini di un fenomeno, individuare la linea di tendenza, per cui non è detto che lo storico debba necessariamente parlare del passato. Lo storico interroga il passato, ma interroga molto in funzione del presente. Deve in qualche modo ricavare la linea di tendenza che interessa oggi. In terzo luogo, vi ho detto che pensare significativamente, storicamente, significa pensare per insieme, non perdere la visione di insieme. E vi ho spiegato come sia, per certi versi, sì, forse necessario, ma anche un male, pensare in modo specialistico, e sia solo un male pensare in modo iperspecialistico. I problemi concreti non si comprendono con approcci specialistici. Un esempio è esattamente quello che vi ho appena fatto dell'interazione di due campi apparentemente distanti fra loro, cibo ed energia, e di come questi due settori si intersechino a loro volta con valutazioni di ordine politico, militare, finanziario, assicurativo. Questo è un esempio, e quello che noi discuteremo domani con Colombo, svilupperemo in particolare una visione di insieme dei processi politici della globalizzazione. Dopodomani con il professor Aliberti vedremo un esempio di come tutto questo si trasforma in un modello, credo che in particolare vi farà il modello del terrorismo, e dove vedrete per esempio le interazioni fra economia e terrorismo, la famosa domanda: ma come avete fatto a beccare la strage di Atocha? E per vedrete come grosso modo. Bene, tutto questo io vorrei ritrovarlo in sede d'esame con voi, per cui io vi dico fin d'ora, non vi farò domande del tipo quando è stato istituito il WTO o quando è stata la guerra del futuro. Quello dopo per scontato che lo sapete. A me interessa sapere che cosa pensate, la vostra capacità di scomporre, analizzare un problema e di individuare possibili chiavi interpretative. Esattamente come io ho fatto, forse sbagliando oggi, identificandovi l'interazione fra i biocombustibili e il problema della fame. Forse è un mio errore, beh, siamo in molti a pensarlo, però, devo dire questo, e fra cui una parte della ricerca economica, sociologica e politologica. È una tesi che io vi ho esposto. Io gradirei che voi mi esponeste vostre tesi, che vi studiaste qualche singola. Non mi interessa sapere se sapete esattamente il dato, la data, il personaggio, l'organizzazione, sì, vabbè, d'accordo, a me interessa come ragionate. Se avete imparato un metodo, se avete imparato a scomporre un problema, ad analizzarlo e a formulare una vostra tesi. Io sostengo che la globalizzazione in materia assicurativa ha prodotto questo metodo. Può essere vero o no, non è quello l'importante. L'importante è capire il ragionamento attraverso cui siete riusciti ad arrivare a questa conclusione. Quindi il tipo d'esame, qualsiasi libro portiate, qualsiasi argomento vogliate proporre, eccetera, eccetera, eccetera, sarà un ragionamento di questo tipo. Lo faremo molte volte, ci incontreremo molte volte con esattezza, fino a quando, vedo degli sguardi turbati, perché fino a quando? Allora, ci siamo capiti? Allora, forza la luce. No, volevo solo chiedere, ma l'argomento lo scegliamo noi per l'esame? Certo. Non siamo capiti, l'argomento, il libro, è tutto libero. Quello che non è libero è il metodo. Quello che vi dovete dimostrare è la vostra capacità di utilizzare un metodo. Ma dovevo presentare un libro che ce l'ha sta comendo qua. Quello non riusciamo. Dare un argomento, fate, no, mi portate una cosa per il minore. L'importante è che però ci sappiate ragionare su. Quello che conta è questo. Ragazzi, questo non è il liceo, non è la scuola media scolare, questa è l'università. Dovete adattarvi all'idea che è arrivato il momento in cui dovete produrre voi delle idee. Quindi, anche perché la professionalità, ma voi pensate, se una ditta un giorno dovesse sconsideratamente assumere, può succedere, no? Secondo voi vi assume perché sapete, perché siete in grado di rispondere a quando è stata la guerra dei sei giorni e a quando è morto Napoleone? Sai quanto viene preso? Vi assume perché vuol sapere altre cose, vuol sapere se siete in grado, ad esempio, di valutare il rischio di un investimento o di un insediamento in una certa zona, o la capacità di leggere un determinato rapporto della Banca d'Italia, oppure il discorso del Presidente degli Stati Uniti, o di valutare la possibilità di rischio che ci sia una guerra in Iran, cioè in base poi alla specializzazione di ciascuno di voi. Realisticamente vi auguro tutti avere successo professionale, di trovare lavoro e trovare a livello della vostra preparazione professionale, ma questo significa che dovete lavorare a questo tipo di professionalità. Quindi quello che io vi chiedo, non mi aspetto miracoli perché siete studenti del primo, perché è ovvio che vi muoviate con una certa incertezza, approssimazione. L'importante è capire se il cervello si è messo, gli ingranaggi del cervello si sono messi in movimento o no. È chiaro? Cioè, quello che conta è se iniziate un pochino a muovervi su questo terreno, oppure andate probabilmente nel pallone di fronte a notizie di giornale, di fronte a una cartina geografica, a una tabella o a un capitolo di libro o a quello che vi pare. Sono spiegato? Sì, sì. Bene, grazie. Sorridete. Sorridete poco oggi, eh? È successo. Il santo c'era la fame, eh? Io penso che sia appunto questo progresso. Perfetto. Per questo non sorridi. Allora, siccome abbiamo un po' di tempo, accetto domande. Dimmi, guarda. No, no, è un pigiato. Ah no, parlo di te. Beh, credevo che fossi tu, visto la mano della direzione. Era la sua sinistra, non la tua destra. Ok. Sì. No, prima volevo fare una piccola considerazione sulla la Cina e il ruolo in Afghanistan. Secondo me, allora, è vero che ci sono, come ha detto lei, di sicuro c'è il fastidio per avere le basi militari americane al confine. È vero anche che la Cina è un tradizionale alleato del Pakistan e che fra l'altro sta vendendo anche tecnologia atomica al Pakistan, infrangendo il trattato di non proliferazione. E quindi, però, sì, infatti. Però secondo me la Cina ha una grande abilità nel mondo di oggi, è quella di fare affari con chiunque, indipendentemente dalla posizione politica e anche in condizioni geopolitiche complesse. È in grado di fare affari in Sudan con il mercato degli armamenti approfittando della guerra, piuttosto che in grado di fare affari in Niger prima del crollo del regime e dopo il crollo del regime allo stesso modo, fregandosene di chi governa. Di conseguenza non do tanto per scontato un intervento diretto, anche dove per diretto ovviamente non penso che i cinesi invadano l'Afghanistan, ma penso che i cinesi facciano operazioni di intelligence e di supporto strategico, però mi sembra piuttosto improbabile. Penso che invece tenteranno solo allo sfruttamento economico, lasciando fare il lavoro sporco agli altri. La domanda poi mia è il ruolo delle nuove economie in ascesa, per cui la Cina, l'India, la Corea del Sud, che si acquistano terreni in Africa sostanzialmente per rifornirsi nel futuro, per assicurarsi rifornimenti alimentari, che impatto potrebbe avere e che, come dire, feedback negativi potrebbe avere sul futuro alimentare del terzo mondo? Allora, primo, una cosa probabile non è una cosa sicura, quindi neanche io sostengo che la Cina farà o non farà certe cose. Mi limito a registrare alcune probabilità. Secondo, sì, la Cina ha finora dimostrato una notevole versatilità commerciale, questo è evidente, però, attenzione, la Cina è un paese che continua a ragionare con priorità politiche, come dimostra il fatto che è un paese che ha un forte senso dello Stato nazionale e che ha una guida tutta politica nel Partito Unico. Terzo, delle variabili che hai considerato, non hai considerato la più importante, qual è la spina evitativa peggiore che la presenza americana in Afghanistan attiva. Le regioni di confine con l'Afghanistan sono le regioni in cui sono presenti gli uiguri, la minoranza islamica presente in Cina, che è anche quella più vivace, diciamo. I tibetani finora sono invitati a delle manifestazioni, i uiguri tendono a essere un po' più aggressivi. Allora, il sospetto, il dubbio, il timore che gli americani al confine possono diventare una guerriglia di uiguri, puoi capire con quale ottica si è visto da Pechino. Ecco perché io ti dico che con ogni probabilità i cinesi, avendone solo la possibilità di sfruttare gli americani di lì, lo faranno. L'acquisto dei terreni in Africa. In realtà l'acquisto dei terreni in Africa, che non fa solo la Cina, lo ha fatto anche la Corea, lo ha fatto anche la Russia, lo sta facendo anche l'Unione Europea, sia pur non direttamente ma tramite le sue multinazionali, è una delle premesse più probabili di scontro in un prossimo futuro. Se il collasso alimentare dovesse portarci ad una nuova crisi malthusiana, cosa che noi abbiamo invece pensato fosse un relitto del passato, improvvisamente rischi di guerra finora assolutamente trascurabili acquisterebbero una loro corposità. In particolare proviamo a immaginare cosa succederebbe se gli affamati del Madagascar assaltassero i convogli di cibo diretti alle navi che stanno per salpare per la Cina. La Cina resterebbe a guardare o interverrebbe militarmente? La risposta sta nel fatto che parte della già data nella versione scorsa Antonio Cardia, quando vi ha parlato del programma, dello sviluppo del programma di portaerei cinesi, a cui si accompagna una cosa sulla rivista italiana della difesa, anni mezzo fa uscì un interessante articolo nel quale c'era una foto che a me fece fare un salto sulla sedia. Una foto nella quale si vedeva un nuovo mezzo da sbarco, un carro armato, diciamo, che aveva la caratteristica sagoma a V. Perché? Perché in qualche modo apre il portello davanti e consente lo sbarco degli uomini che avvengono. Questo significa una cosa, che la Cina inizia a darsi una fanteria da sbarco, una fanteria come era. Ora, siccome io non credo che abbiano in testa Taiwan, questa è già una risposta alla tua domanda. A quel punto c'è da chiedersi se si tratterà solo di quello o se questo attiverà una guerra indiretta fra cinesi e americani in Africa. Cioè, è probabile che la corsa a accaparrarsi terreni, land grabbing di cui si parla, sia una reazione isterica tendenzialmente, non particolarmente militata, diciamo. C'è una componente ansiogena in tutto questo che ti fa capire però come la crisi alimentare sia vista come una prospettiva concreta. Forse è un eccesso di precauzione, però è un segnale estremamente allarmante, che da un lato dice quanto è presa sul serio questa crisi, dall'altro lato ti dice anche, nel caso in cui questa crisi malfusiana dovesse svilupparsi, quali sarebbero le dinamiche di una cosa del genere. Poi dimmi, no, puoi ripetere un attimo, visto che ho perso un po' di passaggi, i meccanismi speculativi che si originano dai contratti di future? Sì. Che è l'equivalente di quello che vidi una volta in una vignetta, vidi una volta che era il bambino, e c'era un muratore che era caduto con un secchio di vernice in testa e piedino, che dice: lo puoi fare che il mio fratellino non ha visto? Va bene, allora. Scusi professore, ma mi piace rispondere. Buon lavoro. Allora, il meccanismo è questo, il future. Io compro al prezzo di oggi una merce che lei ha, che però lei non mi consegna oggi, ma mi consegnerà fra 2 anni. Poi possiamo metterci d'accordo se io già le do i soldi da adesso, o le do una caparra magari, oppure se pagherò tutto alla consegna. Però, ben inteso, pagherò il prezzo di oggi, non il prezzo che sarà fra 2 anni. Dopo io che cosa faccio? Quel diritto che ho acquisito con lei non lo esercito direttamente, lo vendo a Paolo, e lo vendo naturalmente a prezzo maggiorato, perché altrimenti si capirebbe che convenienza ne ho. E Paolo perché lo acquista a prezzo maggiorato? Perché nel frattempo il prezzo del bene che lei mi sta offrendo sta aumentando, e allora io realizzo già un profitto senza utilizzare, non c'è bisogno che lei mi mandi il prodotto, che io lo rifinisca in fabbrica, che poi debba vendere il prodotto finito, chi se ne frega. Lo vendo direttamente a lui, ho già realizzato il mio guadagno. A sua volta lui lo vende a Petigiani a prezzo ulteriormente maggiorato, e così via. Questa è una speculazione al rialzo in cui ciascuno di noi sta lavorando sull'idea che il bene acquisterà prezzo nel tempo. E quindi noi stiamo comprando oggi al prezzo di oggi per vendere domani a prezzo maggiorato. Acquistiamo oggi una cosa fra 2 anni, ma in 2 anni quel contratto può passare di mano in mano almeno 100 volte. Ci siamo capiti? La speculazione al ribasso invece è il contrario. Io vendo una cosa che non ho, vendo a Paolo del grano che io non ho, però glielo darò fra 2 anni e glielo vendo a 100 lire. Il mio calcolo qual è? Che entro i 2 anni il grano scende a 60 lire, così io lo compro, glielo consegno e ho già guadagnato 40 lire senza muovere un dito. Quindi i 2 meccanismi della speculazione sono a ribasso o a rialzo. Ovviamente il ribassista lavora delle volte su vendita allo scoperto, il rialzista invece tende a fare questo tipo di operazione che vi ho detto prima. Mi sono spiegato? No, ho ancora un dubbio. Vendere al prezzo differente da quello corrente, comunque prospettando che poi sia perché oggi il barile di petrolio del Brent è a 100, però siccome sta aumentando, io vado da Paolo e dico: sì, oggi è a 100, però hai visto? Ieri era 90, io oggi te lo vendo a 92. È più di oggi, ma è meno di domani. Paolo a sua volta, siccome domani effettivamente il prezzo è arrivato a 100, va da Petigiani e dici: senti, lo vuoi comprare a 103, visto che domani probabilmente sarà a 105? Arrivederci. Ciao. Scusi, per cui è il meccanismo della profezia che si autoinvera. Cioè, paradossalmente, proprio il fatto che io prevedo l'aumento, e lo prevede anche lui, mi permette di vendere a un prezzo più alto. Il fatto che io venda a un prezzo più alto automaticamente porta la tendenza del prezzo a crescere, e così via. È la cosiddetta profezia che si autoinvera. Chiaro? Ti volevo chiedere, ma in sostanza con il future tu devi stare attento, lo speculatore deve stare attento a non restare con il contratto in mano, perché certo, altrimenti ti ritrovi con centinaia di litri di petrolio. E devi stare attento anche a una cosa: per esempio, un celebre ribassista è stato un grande della borsa milanese, Aldo Ravelli, che è stato il maestro di Sergio Cusani, e ci rimise la bellezza di 30 miliardi del 79 perché tentò un'operazione speculativa sull'oro, prevedendo che l'oro sarebbe diminuito di prezzo, vendette allo scoperto una certa quantità di oro. Sembra che ci sia stato un accordo per fargliela, perché questo scherzo l'aveva fatto molte volte e quindi molti lo stavano aspettando all'arco, per cui sia pure facendo sforzo tennero alto il prezzo dell'oro fino a quando lui non fu costretto ad acquistare, perché poi se vendi allo scoperto e non è pronto quello che hai venduto alla scadenza, tu sei espulso. Quindi a quel punto quello che costa costa, ti devi procurare la merce che hai venduto, e se la merce costa di più di quando tu l'hai venduta, ci rimette. E lui ci mise 30 miliardi del 79, che erano soldi. Chiaro? Quindi questo è uno dei rischi professionali dello speculatore di borsa, in particolare del ribassista. E infatti c'è più di una persona che si è tirato un colpo alla tempia per una cosa del genere, perché corre il rischio di fallire. Ma io dicevo anche qualora l'investimento andasse a buon fine, cioè, tu devi cercare di monetizzare, non di restare con la materia prima in mano. Questo certo. Ma certo, lo speculatore non è interessato a tenersi, è interessato a comprare e vendere, a monetizzare il risultato della sua speculazione, che è quello che è alla base del meccanismo della speculazione finanziaria, perché sono questi continui passaggi solo sull'aspettativa di guadagno finanziario che ovviamente diversamente non capiresti, perché il petrolio da 40 dollari è arrivato a 170 e poi è tornato a 39 e adesso di nuovo è a 77. Cioè, salti di questo tipo non si giustificano solo col rapporto tra domanda e offerta. È evidente che c'è un moltiplicatore dentro, che è la speculazione finanziaria. Visto il discorso che ha fatto, mi è venuta in mente un'osservazione, ma non è che potrebbe essere che in realtà diciamo la posta in gioco nel gioco nucleare, nella querella nucleare in Medio Oriente fra israeliani e iraniani, non sia in realtà un modo per tenere sotto controllo, cioè sì, per controllare il prezzo del petrolio, nel senso che gli iraniani con la minaccia che hanno la bomba atomica, e non solo perché la bomba sciita, perché la bomba di qua e di là, in qualche modo, siccome sono quasi sicuri che gli americani non possono attaccarli perché sono già impantanati in Iraq e in Afghanistan, appunto hanno in mano la leva per far schizzare in alto il prezzo del petrolio, e gli israeliani dall'altro lato, cioè si spiega, almeno no, questa è la mia idea, che si spiega anche il comportamento irrazionale che hanno avuto nei confronti del Mar di Marmara. Beh, allora, io credo che queste possano essere manovre, diciamo, complementari. Nel complesso di Damià, anche perché è un gioco maledettamente rischioso, perché lì un bombardamento nucleare, sia pure con armi nucleari tattiche, è un rischio che stanno correndo gli italiani. Tieni conto che di avantieri la notizia, poi non vai a vedere quanto vera, che l'Arabia Saudita darebbe il diritto di sorvolo agli aerei israeliani nel caso di azione contro l'Iran, che ti fa anche capire come anche quegli altri guardino male l'ipotesi della bomba iraniana. Quindi sarebbe un gioco pericoloso. Questo però non toglie che nelle more, visto che ci siamo, questo serva anche a fare alcune operazioni di breve periodo, però, perché è chiaro che questa storia va avanti da 3 anni, non è che una dichiarazione o più dichiarazioni riescano a influire sul prezzo del petrolio per un periodo di tempo così prolungato. Puoi pensare che una certa dichiarazione del Mahmoud o degli israeliani turbi il mercato del petrolio domani mattina, e visto che ci siamo, visto che la devo fare io la dichiarazione, magari i miei operatori di borsa sanno come devono comportarsi. Però credo che questo sia il contorno, non sia la bistecca. La bistecca prevalentemente può essere. L'insalata può essere questa, possibilissima. Allora, altre domande? Oggi siete stroncati, oggi avete la consistenza del piatto di spinaci lessi. Vabbè, d'accordo, basta così, domani lezione orario.